Cooperanti e volontari, il terzo settore e la sicurezza. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Believe that every person who is sent out abroad to help others who are in need, they deserve the best security preparation possible. Before going to a country, really read what there is to know about this country. We're talking about culture, but also dress codes, how people behave, how they interact with each other. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra è sempre al suo posto: Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Luca Cremonesi in assistenza e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, il numero per sms e whatsapp per domande e commenti. Però abbiamo anche i social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e la pagina Facebook. Su Twitter cercateci, siamo Nessun Luogo 24, ovvero il mio account personale che è Giampaz. Dopo il caso Silvia Romano accendiamo i riflettori sul tema della sicurezza. Le ONG che operano all'estero in aree a rischio possiedono efficaci protocolli per salvaguardare i propri operatori? I cooperanti sono adeguatamente formati e preparati? E in ultima istanza, che cos'è la sicurezza e come si valuta? Beh, potremmo definirla quell'indispensabile investimento, non costo e attenzione, che devi fare per poter lavorare. E la cosa interessante è che non ti accorgerai mai dell'investimento fatto a meno che non accada qualcosa. Ed è sempre l'ultima cosa che vuoi. 349-238-6666 per commentare, porre domande a me e ai miei ospiti su questo tema, ma anche oggi la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Il primo si porta in Corea del Sud, lo avete sentito anche dai GR24, dove sono state reintrodotte alcune misure di blocco nell'area metropolitana della capitale, Seul, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 79 casi di contagio da coronavirus, 67 nell'area metropolitana. Da domani fino al 14 giugno verranno chiusi musei, parchi e gallerie d'arte. Le aziende sono state invitate a reintrodurre il lavoro flessibile. Ai cittadini è stato consigliato di ridurre i contatti sociali e evitare ogni luogo affollato o assembramento come bar e ristoranti. Ha parlato il ministro della Salute dichiarando che le prossime due settimane saranno per il paese cruciali per prevenire la diffusione dell'infezione. Se falliremo, ha chiusato, dovremo tornare alle misure di distanziamento sociale. La buona parte di questi casi di contagio riscontrati ieri sono collegati a un nuovo focolaio in un centro di logistica in una città alle porte di Seul. Secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, la maggior parte dei pazienti di questa nuova ondata sono giovani e nessuno di questi per il momento ha contratto la malattia in forma grave. Rapporti Cina e Hong Kong, questo è il secondo dossier che vi sottopongo, è sempre qui, scottante direi, sul tavolo della redazione di Nessun Luogo Lontano. La nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, la discussa norma che secondo molti detrattori costituisce il colpo finale alle libertà civili dell'ex protettorato, dell'ex colonia britannica, è a un passo più vicina. L'Assemblea Nazionale del Popolo, infatti, di Pechino ha approvato la legge con 2.878 voti favorevoli, 6 astenuti e un solo voto contrario. Risultato ovviamente largamente previsto. Con i nostri ospiti nelle scorse settimane avevamo paventato esattamente questa ipotesi, perché nel sistema cinese l'Assemblea Nazionale del Popolo rappresenta il Parlamento, ma ha sostanzialmente funzioni formali, cerimoniali e poco più, e si limita ad approvare le leggi che sono stabilite dal governo. Tuttavia l'iter di questa legge è in pieno movimento e l'esito sembra scontato a meno di clamorose sorprese dell'ultimo momento. La procedura, dicevamo, adesso passa al Comitato Permanente dell'Assemblea, che potrà promulgarla già ai primi di giugno e entrare definitivamente in vigore a settembre, andando a scavalcare chi? Beh, il Parlamento di serie B, potremmo dire, il Legislative Council proprio della città di Hong Kong, che a quel punto non potrebbe eccepire alcunché. Nel frattempo vi segnaliamo che comunque a Hong Kong e soprattutto sui gruppi Telegram sui quali continua a indagare il nostro Antonio Talia si sta vociferando di nuove azioni e nuove iniziative. Nel frattempo, notizia di qualche ora fa, la giornata di ieri almeno statunitense, Mike Pompeo, segretario di Stato, ha dichiarato che Hong Kong non è più autonoma dalla Cina. È un'affermazione che potrebbe portare Washington a ritirare quello status economico particolare di cui la città gode negli scambi appunto con gli Stati Uniti. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo ve ne darò conto. Abbiamo citato Mike Pompeo e torniamo negli Stati Uniti. Sullo sfondo vi sono le ormai conteggiate dalla Johns Hopkins University 100.000 morti per il Covid-19. Sostanzialmente il numero è macabramente uguale a quello delle guerre di Corea, Vietnam, Iraq e Afghanistan messe insieme. Un calcolo che brevemente ha fatto la BBC. A contrarre il coronavirus sono stati fino adesso 1,7 milioni di persone. A preoccupare gli esperti e soprattutto l'aumento dei casi di contagio che si è registrato dopo lo scorso fine settimana, proprio in un momento in cui alcuni stati stavano allentando la tensione. E naturalmente l'immediato riflesso economico qual è? Beh, che milioni e milioni, a questo punto sono già 40, di cittadini americani hanno chiesto il sussidio di disoccupazione. E questo chiaramente non fa dormire sonni tranquilli al presidente statunitense Donald Trump, il quale però nel frattempo ha ingaggiato un'altra feroce battaglia, ne davamo notizia proprio ieri, stavolta con i social media e in particolare con Twitter e Facebook. Sarebbe pronto Donald Trump a firmare nelle prossime ore un ordine esecutivo proprio sui social media. La notizia arriva dal portavoce della Casa Bianca, che però, come spesso accade, le notizie che arrivano in particolare da Donald Trump ma anche dal suo entourage non ha specificato i dettagli di questo provvedimento. Fra l'altro, come sottolinea molto efficacemente la BBC, il broadcast britannico, non è chiaro quali passi normativi il presidente possa intraprendere in questo ambito senza approvare una nuova legge al Congresso. E quindi vedremo se questo scontro tra Trump e i social media, che è iniziato quando Twitter ha bollato alcuni tweet del presidente come non affidabili, dicendo attenzione, qua bisogna verificare le fonti, vedremo, dico, se avrà un esito strettamente legale, quindi di procedura, di nuove leggi, nuovi decreti, oppure se avrà anche degli strascichi giudiziari. E l'ultimo dossier che vi sottopongo è particolarmente interessante e allo stesso tempo inquietante, perché stiamo continuando a monitorare la vicenda dei jet russi che sono arrivati in Libia. Nel pomeriggio di ieri AFRICOM, che è il comando militare statunitense africano, ha pubblicato altri tweet allegando immagini satellitari in cui si afferma che i jet russi coinvolti in questa operazione MiG-29 Sukhoi 24 non sarebbero 8 ma almeno 14. Secondo le ultimissime fonti e indiscrezioni, i jet sarebbero partiti da basi russe in territorio della Federazione Russa, arrivati in Siria, lì sottoposti a un'operazione di tecnicamente si dice camouflage, per cui vengono cambiate le livree, vengono cambiati i colori e resi meno osservabili anche in territorio desertico africano libico, e dicevo sarebbero poi partiti dalle basi in territorio siriano fino all'est della Libia. Gli aerei sarebbero stati pilotati da personale militare russo scortato da jet militari russi dopo uno scalo a Tobruk, poi fino ad arrivare alla base di Al-Jufra. Siamo a questo punto a 500 km a sud-est di Tripoli. E infine l'Afghanistan, almeno 14 membri delle forze di sicurezza afghane uccise oggi in un attacco, gli ufficiali governativi, Kabul accusa i talebani ma non è arrivata nessuna rivendicazione. L'attacco è arrivato nella provincia di Parwan, a nord della capitale Kabul, è stato attaccato un checkpoint governativo. Si tratta delle prime vittime dal lato di Kabul da quando il cessate il fuoco di 3 giorni, che era stato proclamato dai talebani per la festa di fine del Ramadan, si è conclusa alla mezzanotte di martedì. Questi nuovi attacchi dimostrano ancora una volta che i talebani fanno parte di quegli attori che in contesti di crisi trattano sì, ma quando si siedono al tavolo delle trattative normalmente appoggiano una pistola, e in questo caso è una pistola fumante. Allora, sono un po' di messaggi al 349-238-6666, qualcuno mi accusa di falsare le notizie, alla stregua evidentemente di Twitter, della CNN, del Washington Post, perché non parlo di Obamagate, siamo una radio del Deep State, così Marco, che ci invita a dire come stanno realmente le cose in America. Qualcun altro stigmatizza il blocco, che non posso confermare, adesso magari chiedo alla redazione di dare uno sguardo veloce. Trump ha bloccato invio respiratori polmonari a Cuba Cuba aiuta l'Italia, il nostro alleato continua con il suo egoismo. Così un altro ascoltatore, fra pochissimo naturalmente vi darò conto dei vostri commenti e delle vostre domande sul tema principe che è di quest'oggi. D'altra parte, Roberta Fisani, parlavamo proprio di Afghanistan. Ecco, e se dovessi partire per l'Afghanistan? Beh, se dovessi partire con l'Afghanistan, per l'Afghanistan avrei alcune cose da fare. Per esempio dovrei scegliere con cura l'alloggio e le conseguenti vie di fuga. Dovrei controllare la strada in cui è situato il mio hotel o la casa in cui vado ad alloggiare. Dovrei verificare le condizioni della jeep o dell'automobile appena noleggiata, l'affidabilità dell'autista. Magari scatterei una foto alla targa del veicolo, magari mi farei un selfie con sorriso io e l'autista per individuare immediatamente l'ultima persona che mi ha visto in caso di rapimento. E ancora un'ultima occhiata allo zainetto in cui devono trovare posto documenti, acqua, barrette energetiche, satellitare. Verificare per esempio, se è una zona di guerra, che le piastre balistiche del giubbetto antiproiettile reggano il calibro utilizzato in quel particolare teatro, e poi l'elmetto, gli occhiali protettivi, i guanti, i farmaci essenziali. Ecco, sono solo alcune delle cose che un giornalista, ma anche un operatore umanitario, non tutte le cose evidentemente, fa quando si reca in una zona di conflitto o a rischio. Sono sufficienti le cose che ho elencato? No, ci vogliono anche procedure per ridurre al minimo le finestre di rischio e ci vogliono comportamenti adeguati, e non sempre saranno sufficienti. A partire dagli anni Ottanta il settore degli aiuti umanitari è cresciuto in maniera esponenziale. Parallelamente a questa crescita del settore sono cresciuti anche gli attacchi contro gli operatori. Ma non sono gli espatriati o lo staff internazionale a essere uccisi o rapiti o sottoposti a violenza a ritmi più elevati. Sono soprattutto i locali. Sono cittadini dei paesi proprio che ricevono aiuto e che collaborano con le ONG. Così ha scritto per esempio la ricercatrice canadese Emily Scott della McGill University in un articolo recentemente pubblicato sul Washington Post. Prima degli anni 2000 lo staff locale era il 19% del totale delle vittime tra gli operatori umanitari delle Nazioni Unite e della Croce Rossa. Nel 2010 la percentuale è salita, pensate, al 71%. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proveremo a ragionare sullo stato dell'arte, della sicurezza di tanti operatori e cooperanti, anche italiani, che lavorano in zone a rischio. Mi preme puntualizzare almeno due aspetti per poi presentare i nostri ospiti. Il primo, la sicurezza è un concetto collettivo, non è solamente individuale. Non devo essere solo io al sicuro se io, Musumeci, mi reco in Afghanistan o in Congo o in Colombia. Perché? Mi tutelo, ma se lo faccio mi tutelo non soltanto me stesso ma anche la mia categoria, i miei colleghi. Sapete, molte volte in passato mi è capitato di pagare personalmente il comportamento di chi mi aveva preceduto, e chiaramente il lavoro giornalistico scoprirete che in queste modalità ha molti punti di contatto anche col lavoro del cooperante. Allora, buongiorno e benvenuto innanzitutto a Francesca Mangia, vice direttore del Dipartimento Supporto alle Operazioni di Medici Senza Frontiere, per 12 anni coordinatore di terreno e capo missione. Mangia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno a tutti. E poi dovremmo avere anche Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI. No, sta arrivando, ok. Allora, Mangia, partiamo da lei, peraltro con una lunga esperienza sul terreno, 12 anni, vari paesi, anche alcuni con zone di rischio, tasso di rischio molto molto elevato. Quanto tempo dedicate alla formazione e in che modo voi di Medici Senza Frontiere? Beh, sicuramente è una delle priorità anche nei corsi prepartenza. Il fatto di lavorare in zone remote, in zone di conflitto, di emergenza, quindi in contesti particolari, deve dare per scontato che le risorse umane e non che vengono inviate siano effettivamente in sicurezza. Parlavate prima effettivamente del concetto collettivo della sicurezza, quindi assolutamente sì. È un concetto collettivo e la gestione anche un po' a livello personale, e nel senso che le conseguenze possono avere un impatto sul resto del team, della categoria, diceva lei in precedenza, ma anche sulle operazioni stesse, quindi sulla continuità effettivamente di poter continuare a lavorare in un determinato contesto e portare l'aiuto, quindi raggiungere l'obiettivo che si è prefissi. Sì. Partiamo già da una sorta di organizzazione fatta a priori, nel senso che i contesti in cui Medici Senza Frontiere lavora vengono divisi in categorie, per cui i contesti rossi, dove effettivamente ci sono alti rischi per la sicurezza, e parliamo di qualunque tipo di esposizione a rischio, sia epidemie particolari che non anche appunto conflitti, presuppone la partecipazione di operatori con già un certo livello di esperienza, che quindi possano lavorare in autonomia, che possano gestire eventualmente l'imprevisto e che possano sapere esattamente come comportarsi. È molto molto raro, a meno che non si tratti di un profilo tecnico particolare, che chi parte con noi per la prima volta venga mandato in questi contesti. Sì. E c'è poi tutto un corso di induction, prima ancora di partire c'è un corso sulla sicurezza, che più che gestire la sicurezza viene insegnato come reagire in determinati incidenti, soprattutto cosa non bisogna fare. Parlo magari a... mi riferisco a una questione di controllo delle emozioni, non cercare di innervosire, no, il perpetrator o sì. comunque chi è, perché quello effettivamente serve a ridurre eventualmente l'impatto sì. dell'incidente di sicurezza. Sì. Francesca Mangia, lei sta andando già molto avanti, sta esplicitando quello che è un concetto che chi fa questo mestiere conosce bene, essere grigio, l'uomo grigio, insomma, essere il più elastico, indifferente, invisibile possibile. Questa cosa aiuta molto in casi di situazioni di violenza, di caos generalizzato, di aggressività da parte di un attore che magari non conosciamo, e quindi cerchiamo di ridurre al minimo quelle che possono essere gli inneschi, no, di reazioni sì, violente. Esatto. E questa è una cosa importantissima. Fatemi dare il benvenuto anche a Giampaolo Silvestri, che è segretario generale di AVSI. Silvestri, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, io faccio a lei la stessa domanda. AVSI e MSF sono due realtà evidentemente diverse, a volte si incrociano su terreni simili, se non gli stessi territori. Quanto tempo dedicate, Silvestri, alla formazione dei vostri cooperanti e in che modo? Beh, dunque, la formazione di coloro che iniziano a lavorare con noi, che poi vanno nei paesi dove noi operiamo, è un elemento essenziale, diciamo così, del nostro modo di lavorare. Normalmente noi facciamo questa formazione sia chi parte come cooperante, quindi con un lavoro, ma anche coloro più giovani che partono per internship oppure negli ultimi anni con il servizio civile. C'è una formazione iniziale che dura circa una decina di giorni, che facciamo noi qua in sede, che tratta un po' tutti gli aspetti del mondo della cooperazione, cioè la nostra organizzazione, come siamo organizzati, le nostre policy, le nostre norme, i nostri valori. Sì. E poi c'è una formazione ad hoc, diciamo on the job, a seconda del profilo che la persona ha e del tipo di lavoro che va a fare. Poi chiaramente nel corso del percorso professionale ci sono anche i momenti di aggiornamento. Sì. Quindi diciamo la formazione è un aspetto importante, e all'interno della formazione c'è un momento dedicato proprio alla sicurezza e alle norme di sicurezza che noi abbiamo. Sì. Allora, con Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, con Francesca Mangia, vice direttore dipartimento supporto operazioni di Medici Senza Frontiere, ma con una lunga esperienza proprio sul campo, ragioneremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano proprio sul concetto di sicurezza. Naturalmente, lo immaginate, sullo sfondo c'è la vicenda di Silvia Romano, ma non vogliamo assolutamente entrare su quella vicenda. Come vi dicevo una decina di giorni fa, ci sarà un momento debito anche per tirare le somme su quella vicenda, ma non sta certamente a noi e soprattutto in questa sede dare giudizi. Mentre aspetto le vostre domande e i vostri commenti, c'era qualcuno al 349-238-6666 particolarmente incuriosito dal mio iniziale racconto, lo zainetto e tutti i dispositivi di protezione. Guardi, gentile ascoltatore, intanto non c'è niente di romantico, sono cose che tutti i giornalisti che si recano in zone a rischio fanno regolarmente. Poi capisco che ci possa essere anche un pizzico di curiosità, ma per noi è una procedura fondamentale, indispensabile, e molte non le ho elencate, ce ne sono tante altre. Qualcuna la accarezzeremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, però mi preme capire con due rappresentanti di due grosse realtà come AVSI e Medici Senza Frontiere, capire se credete entrambi che tutte le ONG abbiano gli stessi standard di sicurezza, o se qualcuno si muove in maniera più consapevole e qualcun altro un po' meno consapevole. Francesca Mangia, MSF. Da, Penso che magari il record, il registro degli incidenti possa dimostrare che effettivamente c'è un atteggiamento diverso nei confronti della sicurezza. Ovviamente tutto parte anche dal livello di esposizione al rischio delle proprie operazioni, quindi in che maniera ognuno si cautela. Sì. Sono delle organizzazioni effettivamente che possono avere meno capacità, però di solito ecco, si affidano magari sotto l'ombrella delle Nazioni Unite, quindi sotto un protocollo di sicurezza un po' più generalizzato. Noi di Medici Senza Frontiere abbiamo i nostri protocolli, quindi non solo regole di sicurezza a livello di missione, ma ogni progetto ha le proprie regole, proprio perché cambiano i contesti, cambiano le relazioni umane con la popolazione locale, piuttosto che con gli attori coinvolti eventualmente che avrebbero un ruolo nella sicurezza dei team. Certo. E giustamente i team sia internazionali, gli espatriati cooperanti, che non anche lo staff nazionale. Certo, certo. Ecco, chiedo scusa, Amangia, la interrompo, sì. Ma per quando lei dice quando cambia il contesto, evidentemente parliamo anche di contesti geografici, cioè andare in Afghanistan prevede una serie di procedure, andare in Senegal, per esempio, ne prevede delle altre, evidentemente il grado di rischio è differente, no? Sì, non solo, cambia anche il grado di rischio se si va a Kabul, se si va a Kandahar, certo. O se si va a Jalalabad piuttosto che a Maimana, sì. Perché proprio o a Kunduz. Noi Kandahar paradossalmente c'è un certo protocollo di sicurezza, Kunduz dove l'ospedale ci è stato attaccato è distrutto, oggigiorno ne ha un altro. Sì. Kabul si aveva un certo protocollo di sicurezza e due settimane fa l'ospedale di Medici Senza Frontiere è stato attaccato. Sì. Anche lì avevamo staff nazionale e internazionale, vero è che poi in ogni ospedale MSF ci sono delle stanze, delle safety room, quindi delle stanze, quello che lei menzionava prima, che lei ogni giornalista porta nello zainetto, in realtà viene messa a disposizione di, quindi si prevede un numero massimo di gente che può trovare rifugio, certo. In alcune stanze protette, che possono quindi avere tutto per poter affrontare insomma il momento. Certo, la voce che state ascoltando è quella di Francesca Mangia, Medici Senza Frontiere, una lunga esperienza proprio sul campo, sul terreno, spesso in contesti difficili. Prima di andare da Giampaolo Silvestri invece di AVSI, un po' di commenti, di domande degli ascoltatori che sono particolarmente incuriositi e alcuni anche contenti di che si tratti questo tema, perché hanno, cito testualmente un WhatsApp, c'è una figlia di un'ascoltatrice che si appresta proprio a intraprendere questa strada. È interessante un messaggio che giro immediatamente a Giampaolo Silvestri. Ma qual è la cosa più difficile da insegnare ai neocooperanti? La lingua, la gestualità, la cultura locale, le regole di sicurezza o altro? Giampaolo Silvestri. Ah, diciamo che quando una persona va in un paese che è totalmente diverso da noi per contesto, lingua, cultura, ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione, sicuramente le norme di sicurezza che ormai tutte le grandi organizzazioni hanno, le procedure e quindi con l'evidenziazione di diversi livelli di rischio che, come veniva detto prima, cambiano a seconda all'interno da un paese all'altro, ma anche all'interno di un paese tra le zone rurali e le città, ma che mutano nel tempo in relazione anche a diversi fattori. Ad esempio, di solito normalmente un periodo di elezioni prima e dopo è un periodo rischioso, no? Perché ci sono tensioni politiche, eccetera. Quindi certo. La valutazione che noi facciamo di un paese è dinamica, nel senso che i livelli di allerta cambiano nel tempo. Sicuramente però ci sono delle regole che si rispettano per tutti i vari aspetti, non solo della vita lavorativa ma anche della vita in generale, perché faccio solo un esempio banale anche, ecco, no, aspetti Giampaolo Silvestri, la interrompo, regole pratiche, questo ci interessa moltissimo, prima però le devo chiedere di pazientare un attimo, l'informazione finanziaria, poi torniamo da lei. Fineco, è tempo di investire con noi, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Proviamo a fare un ragionamento e restituirvi tutta la complessità di un concetto. Il concetto è sicurezza applicato ai cooperanti, al terzo settore, a quelle migliaia di ragazzi, ragazze, uomini e donne italiane che quotidianamente lavorano anche in teatri in contesti molto difficili. Tra pochissimo tornerò ai vostri commenti e alle vostre domande al 349-238-6666. Prima però Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, stava scendendo nel dettaglio di alcune procedure proprio di sicurezza. Silvestri. Sì, stavo dicendo appunto che la sicurezza non è soltanto relativa agli aspetti lavorativi, ma riguarda un po' tutta la vita, perché si vive in un contesto diverso. Per esempio, noi le nostre norme prevediamo delle regole molto precise, per esempio su dove andare a abitare, cioè la casa, la scelta della casa è fatta da noi, nel senso che deve essere una casa con certe condizioni, con i guardiani, sì, che si può difendere, che deve essere in certe zone, vicino a grandi strade, non vicino a basi militari, oppure l'uso delle auto. Quando si parte, in alcuni paesi, per esempio, noi vietiamo che siano gli espatriati a guidare, ma è meglio che a guidare sia sempre una persona del luogo, sì, che quando si parte si comunichi, quando si arriva si comunichi, si pone in mezzo, che si abbiano sulla macchina certi tipi di materiali, che non si portino armi sulla macchina, non tanto dei cooperanti, ma spesso succede in questi paesi che lungo le strade si trovano militari che chiedono, certo, un passaggio, magari sono armate, e questo noi, certo, non si può far salire sulla macchina qualcuno che sia armato. Cioè ci sono anche cose molto banali, oppure anche il vestire, il modo di vestire, sì, in alcuni contesti deve essere adeguato al contesto, perché comunque vestendosi in un certo modo si è più riconoscibili, si dà dell'occhio, si, certo, può diventare dei bersagli. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che riguardano proprio anche la vita pratica, sì, il fatto di avere sulle macchine per esempio le radio, sì, spesso la rete può andare giù, quindi, certo, voglio dire, ci sono tutta una serie di cose molto banali che normalmente noi che viviamo in un paese generale non abbiamo in mente, ma che lì diventano essenziali e che possono appunto aiutare a trovarsi in situazioni molto difficili. Sì. Sì. Ad esempio, nelle nostre regole non è previsto che uno possa usare i mezzi pubblici in questi paesi, certo, ma che si debba sempre usare, certo, anche per le nostre autovetture, i nostri mezzi, sì, perché comunque viaggiando sui mezzi pubblici, che non sono la metropolitana, no, ma sono i boda boda e vari tipi, certo, di colini che si trovano. E qua per esempio la interrompo, Giampaolo Silvestri, perché c'è molta curiosità rispetto ai nostri rispettivi mestieri, no? La cooperazione, il terzo settore in generale, il giornalista, per esempio il giornalista in questi casi si nutre anche di una certa vita quotidiana dei luoghi in cui va a lavorare, quindi molto spesso anche i mezzi pubblici sono parte del reportaggio, sono funzionali anche al muoversi, sempre sicurezza permettendo, evidentemente. Torno tra pochissimo da lei di nuovo, Silvestri, prima però sia lei che Mangia vi faccio ascoltare un po' di domande, di commenti che arrivano dagli ascoltatori. Un ascoltatore per esempio chiede: ma è veramente possibile prepararsi a un'esperienza del genere fin quando non si arriva sul luogo? E non metto in dubbio che sia utile la preparazione, scrive un ascoltatore. Qualcun altro, vediamo se lo ritrovo, ecco, come tornano cambiati i cooperanti dopo esperienze di questo tipo? E qualcun altro ancora, Claudio da Reggio Emilia, che invece va a stigmatizzare e a mettere in dubbio l'utilità della vostra professione. Invece Silvestri Mangia: al di là di medici, infermieri, ingegneri, sono proprio utili questi volontari? A me non sembra così, Claudio. Forse è utile spiegare a Claudio che intanto c'è un indotto anche di lavoro, e in secondo luogo la complessità e la vastità degli ambiti di intervento del terzo settore possono andare dal settore educativo a quello sanitario, a quello idrico, insomma tanti tanti interventi. Negli ultimi 15 anni ho avuto modo di incrociare tanti colleghi di Silvestri e Mangia e poterne apprezzare, non sempre evidentemente, come ci sono giornalisti cialtroni, ci sono anche cooperanti cialtroni, su questo non c'è dubbio, però ho avuto modo di apprezzare anche l'impatto che ha in questi paesi la presenza. Così, e tra poco torno di nuovo dai miei ospiti, fatemi respingere al mittente un messaggio che arriva da un ascoltatore, non comprendo la firma, comunque scrive da Napoli: dite la verità sull'ONG, sono cavalli di Troia delle speculazioni economiche, portano attacchi all'indipendenza dei paesi. E chiude dicendo: dire la verità, le ONG da chi sono finanziate? Beh, è molto facile, i bilanci sono pubblici, quindi questo si può evincere molto molto facilmente. Francesca Mangia, io direi, prima della prossima domanda, andiamo a fare un po' il quadro, quali sono i numeri della cooperazione italiana nel mondo, così diamo anche una dimensione, un po' di cifre, che è sempre utile. Il mondo del terzo settore è una realtà eterogenea ed estremamente fluida, che comprende diversi inquadramenti professionali, come i cooperanti a contratto, il personale locale, i volontari dei diversi progetti di servizio civile, i tirocinanti universitari e i volontari semplici. Nel 2018, secondo la fotografia fornita da Open Cooperazione, il totale delle risorse umane italiane della cooperazione internazionale ammontava a 22.536 unità, di cui 19.291 impegnate in missioni all'estero, mentre 3.245 attive sul territorio nazionale. Le tipologie di contratto variano sensibilmente tra operatori in Italia e personale impegnato all'estero. Se in Italia il 45% gode di un contratto a tempo indeterminato, fuori dai confini nazionali il 90% degli impiegati ha contratti locali. Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, lo stipendio lordo più alto su base annuale registrato ammonta a 112.380 euro, mentre quello più basso è pari a 10.000 euro. La cooperazione italiana è presente in tutto il mondo, ma il numero maggiore di organizzazioni si concentra nell'Africa subsahariana e in Sud America. Il Kenya è il paese che ospita il più alto numero di organizzazioni italiane, 50, seguito dal Brasile con 46. Rispetto ai settori di intervento, l'84% delle organizzazioni è impegnato in educazione e istruzione, il 73% in capacity building e formazione. Seguono poi salute e aiuto umanitario. Nel 2018 il bilancio complessivo della cooperazione italiana ammontava a poco meno di 1 miliardo di euro. Come l'inquadramento professionale, anche la realtà dei finanziamenti è estremamente eterogenea. I dati forniti da Open Cooperazione mostrano che il 60% del finanziamento totale è composto da fondi istituzionali, mentre il restante 40% ha origine privata. Tutti i dati e le informazioni vanno ricalcolati alla luce della pandemia da Covid-19, che ha duramente colpito l'intero settore, specialmente dal punto di vista economico e logistico. E questa è un po' la fotografia del terzo settore. Sono tanti gli italiani che anche in questi minuti, mentre vi stiamo parlando, stanno operando anche in luoghi molto molto lontani, in contesti a volte molto difficili. Giampaolo Silvestri, AVSI, Francesca Mangia, MSF, in questa puntata in Nessun Luogo proviamo a ragionare un po' sui cardini, proviamo a mettere un po' di puntini fermi su come ci si prepara e su quanta preparazione in generale c'è da parte dell'ONG. Francesca Mangia, come si fa a bilanciare la sicurezza personale e collettiva con l'esigenza di andare a raggiungere un obiettivo, per voi per esempio andare a installare una clinica per curare feriti da arma da fuoco, per esempio? Ecco, dov'è il limite? Dov'è che voi a un certo punto vi fermate e fate un passo indietro? Risposta di getto, dico, nel momento in cui ci rendiamo conto che non c'è l'accettazione della comunità locale. Per cui parte sempre un primo team di esplorazione, a prendere contatti, popolazione, attori coinvolti o che hanno un'influenza sulla zona. Sicuramente avere un carnet di contatti è una delle condizioni sine qua non per potersi muovere. Sì. E poi c'è tutto un dipartimento, oltre che effettivamente la gestione, il setup per la sicurezza sul terreno non viene affidata a tutti, quindi viene affidata appunto ai coordinatori, a gente che ha ricevuto formazione, certo, in questo senso. Certo. Muoversi in macchina nella giungla in Congo piuttosto che nel deserto del Darfur comporta che effettivamente si seguono delle mappe di strade dove vengono creati anche dei punti di riferimento dove, lo diceva prima anche il collega di AVSI, è obbligatorio la conoscenza come utilizzare le radio, sì, e VHF o HF, telefoni satellitari, sì, e quindi periodicamente ogni tot chilometri o ogni tot minuti di percorso è necessario fare un check con la base radio della base del progetto. Certo. E nel momento in cui effettivamente non si rispetta, parte il piano di recupero, quindi di allerta, con tutto, quindi il backup per cercare di rimettere in contatto, di riprendere il contatto, oppure effettivamente di andare a cercare la macchina, il team. Certo. Nel momento in cui però si vede che effettivamente cominciano i primi incidenti o la comunità non è tanto una parte, e anche sufficiente solo una parte della comunità locale non accetta pienamente e quindi non garantisce quella della sicurezza, sì, allora a quel punto noi si fa un passo indietro, certo, fino a quando effettivamente negoziazioni non sono chiare e stabilite, non si espone nessun tipo di nazionale o internazionale. Sì. E nelle parole di Francesca Mangia mi viene immediatamente in mente la situazione congolese, dove avete vissuto voi come MSF in prima persona con la crisi Ebola, anche degli attacchi proprio al vostro personale, alle vostre cliniche, perché a un certo punto si era diffuso, e l'ho vissuto anch'io in prima persona pochi mesi prima, dall'altra parte verso Bandaka, zona invece del ovest del Congo, che fossero i bianchi a portare l'Ebola, e quindi la presenza bianca non era particolarmente ben vista. Tra pochissimo vado di nuovo da Giampaolo Silvestri. Prima però alcuni messaggi degli ascoltatori. Oltre alla sicurezza, come l'integrità fisica, penso alla sicurezza alimentare, come utilizzare l'acqua, alcuni cibi che da noi diamo per scontati, e questo per esempio è un altro tema. E poi ci chiede: qualcuno ha elaborato e confrontato con la realtà una simulazione di un mondo o più stati senza la cooperazione del terzo settore? Chi prenderebbe il posto delle ONG? E qua, gentile ascoltatore, andiamo su un'annosa questione di cui ormai esiste anche una fiorente letteratura, anche fatta da penne africane, Dambisa Moyo in giù, in cui si inizia a storcere il naso, ma l'ira soprattutto sugli aiuti di Stato. Io credo che sia comunque un processo e una presenza, quella del terzo settore in paesi lontani, interessante, che vada monitorato, che vada studiata, e sicuramente che deve prevedere una consapevolezza che sicuramente, perdonate la ripetizione, alcune realtà hanno, e non c'è dubbio. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire la viabilità, poi scenderemo un po' di più sul concreto, perché vi faremo sentire le parole di chi sostanzialmente fa training, cioè addestra alla sicurezza anche gli operatori dell'ONG. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo è lontano. In realtà un giornale con lo stesso titolo, quello di quest'oggi, Sicurezza e Terzo Settore, con due ospiti, Giampaolo Silvestri, Avsi, Francesca Mangia, MSF, per ragionare su quanto e come vengono applicati i protocolli di sicurezza per garantire i tanti, centinaia, migliaia anche di ragazzi italiani che in questo momento stanno lavorando. Attenzione, è una professione a tutti gli effetti, si inizia magari col volontariato puro, ma poi è un lavoro a tutti gli effetti che, ripeto, prevede formazione, prevede studio, prevede competenze come qualsiasi alta professione. C'è tanta curiosità e anche qualche buco di conoscenza da parte degli ascoltatori, lo dico assolutamente in maniera molto laica. Sud America, dove, scrive un ascoltatore, non pensavo avessero così bisogno di ONG. Gentile ascoltatore, pensiamo solo alla situazione del Venezuela, pensiamo a tutto il Centro America, pensiamo a quelle situazioni dei migranti che dal Messico vanno fino al confine degli Stati Uniti, alla disastrosa situazione economica di alcuni paesi, alla difesa dei popoli indios amazzonici. Potrei andare avanti per ore, ma non voglio ammorbarvi, scusatemi, con l'elenco delle attività che si possono fare. Invece c'è una domanda e la giro immediatamente a Giampaolo Silvestri, che è particolarmente spinosa, arriva da due ascoltatori diversi. Mi chiedo sempre, cito il secondo, quanto sia importante la presenza di ONG per l'intelligence. Immagino che collaborino anche su certi temi, o sbaglio? Gentilissima ascoltatrice, Erta, la riconosco, se fa questa domanda a me come giornalista dico no, assolutamente no, il giornalista fa un mestiere, l'intelligence, la gente fa un altro mestiere. Però detto ciò, sull'ONG risponde Giampaolo Silvestri. Ma no, direi proprio di no, nel senso che comunque fa le organizzazioni come la nostra, come le Stesse Frontiere, come le altre, hanno dei codici etici, dei codici deontologici, in cui la collaborazione con i servizi non è ammessa, non è accettabile, sarebbe al di fuori della nostra missione, quindi sicuramente no. Poi ci sono stati forse dei casi in passato, come dire, nelle marce ci sono ovunque, può essere stato, ma non è sicuramente lo scopo della nostra azione, ma nemmeno uno scopo, diciamo, secondario. Questo assolutamente, sicuramente no. Assolutamente. No, ecco, se posso rispondere a quello che diceva un ascoltatore prima, riguardo alla trasparenza, chi finanzia l'ONG. Allora, se c'è un settore, soprattutto in Italia, che ha fatto della trasparenza un elemento fondamentale, è sicuramente quello dell'ONG, dell'organizzazione del terzo settore. Prima voi avete fatto servizi usando i dati di Open Cooperazione, che è un esempio, ma oggi i siti, andando sui siti di tutte le maggiori ONG italiane, c'è l'elenco completo di chi finanzia l'ONG, sia come donatori pubblici che come donatori privati, e che questo è ormai un obbligo di legge con la nuova normativa. Quindi su chi ci finanzia non ci possono essere dubbi, se lei va sul sito dell'APS si trova tutti quelli che ci danno i soldi, a partire da 500 euro in su, voglio dire, quindi da questo punto di vista... Sì, ma ero stato anch'io preciso, Silvestri, non ci sono ambiguità, ecco. Su questo non ci possono essere, dire oggi chi ci finanzia, come dire, non è una domanda che si può porre. No. L'altro aspetto che volevo sottolineare è che, quello che ha detto prima anche la mia collega, che il ruolo della comunità locale è fondamentale. Noi lavoriamo per migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni, quindi il rapporto con la comunità è fondamentale. Se non c'è un'accettazione, è chiaro che lì viene meno il senso della nostra azione, ma perché la comunità stessa è un fattore di protezione, è un fattore di sicurezza. Non c'è molto dubbio. Spesso è proprio la comunità che protegge molto di più delle regole, cioè non le regole dubbio. Ci devono essere. Ma anche, no, perché, anche perché, Silvestri, mi corregga se sbaglio, è la comunità stessa che riceve i frutti del lavoro che fate voi in sinergia con la comunità stessa. Se andate a lavorare sul sistema educativo scolastico della Sierra Leone, che ho potuto vedere per esempio con i miei occhi in prima persona, è chiaro che i sierraleonesi hanno tutta l'interesse ad avere insegnanti colti e preparati per tirare su una classe nei due sensi, diciamo, prima una classe e poi eventualmente la classe dirigente del futuro che sia veramente tale. Allora vi promettevo, facciamo una piccola pausa, vi promettevo di farvi sentire la voce di lui, si chiama Ebbe Brons, è direttore del Center for Safety and Development, è una ONG con sede in Olanda e fanno i cosiddetti corsi HEAT, cioè Hostile Environment Awareness Training, cioè insegnano a come muoversi in ambienti ostili. Aleggia qualche, come dire, qualche pennellata militare, militaresca se volete, ma niente di tutto questo. Che cosa insegnano durante questi corsi? Sentite. Gli argomenti che affrontiamo nei corsi sono scelti in base al rischio che gli operatori affrontano quando viaggiano e lavorano all'estero. Ad esempio, gli incidenti stradali sono uno dei principali rischi quando si viaggia fuori dall'Europa. Affrontiamo il tema del primo soccorso, che non è quello a cui siamo abituati in Europa. Non ci sono ambulanze e il livello di cure mediche spesso è carente. Per questo, in caso di incidente, bisogna essere in grado di prestare le prime cure mediche a sé e agli altri. Spieghiamo come ci si comporta in caso di un'aggressione, come comportarsi se qualcuno cerca di derubarti o, peggio ancora, in caso di rapimento. Spieghiamo come comunicare in maniera sicura, come gestire la propria sicurezza sul campo, ad esempio quando si incontrano posti di blocco lungo la strada, in che modo avvicinarsi ai posti di blocco in maniera sicura, in modo tale che il soldato o il poliziotto che si trova lì non ti consideri una minaccia. Più in generale, ci concentriamo sulla consapevolezza, su come prepararsi prima di raggiungere un paese. Ma punto centrale dell'intero corso è quello degli aspetti pratici. Lavoriamo con attori, facciamo simulazioni il più possibile aderenti alla realtà. Ecco come prepariamo le persone prima della partenza. La voce di Ebbe Brons, direttore del Center for Safety and Development, è questa ONG che fa dei corsi, 1500 persone ogni anno, fra cui anche grandi e piccole organizzazioni, Croce Rossa, Oxfam, Save the Children, per dirne alcuna. Ecco, il punto è però, Silvestri Mangia, AFSI e MSF rispettivamente, questi corsi sono affidati alla vostra buona volontà, non c'è nessuna legge che costringa il cooperante, ma nemmeno il giornalista, per carità, a seguire dei corsi di sicurezza e andare in Afghanistan o in Congo almeno sufficientemente preparato. Sentite il bisogno, in qualche modo, di una norma che esiga questo aspetto, questa cura della sicurezza? Mangia e poi Silvestri. Allora, per quanto riguarda Medici Senza Frontiere, questi tipi di training sono obbligatori per alcune figure professionali, coordinatori di terreno, capi missione, quindi per quelle figure appunto a cui è affidata la gestione della sicurezza o che dovrebbero poi monitorare lo stato della sicurezza del contesto in cui si opera ed eventualmente supportare anche i team. Nulla toglie che effettivamente abbiamo dei dipartimenti nei HQ, quindi nei centri operativi, che danno effettivamente guidance. Sì. A livello legale, per quanto no, nel senso nel momento in cui si recluta effettivamente è preferibile se c'è stata già un'esperienza in un contesto umanitario, che non sia insomma l'Italia, però l'obbligatorietà proprio perché i contesti possono cambiare il non contesto dell'Afghanistan di 10 anni fa è chiaramente diverso. Chiedo scusa Mangia, devo interrompere perché siamo in chiusura, vorrei una battuta al volo anche da Silvestri su questo punto. Sente la mancanza di un'imposizione sulla sicurezza? Allora, non c'è un'imposizione legale, nel senso che non c'è una legge, sì. Però alcuni donatori impongono di avere le policy di sicurezza. Oggi alcuni donatori, se noi vogliamo ricevere fondi su progetti da alcuni donatori internazionali, sia bilaterali che internazionali, impongono che noi abbiamo la norma sulla sicurezza. Quindi è vero che non è legale, ma alla fine, se vogliamo ricevere certi fondi, dobbiamo averla. Quindi in realtà non è solo chiaro, noi poi sentiamo anche l'esigenza di averla a tutela nostra e di quelli che lavorano con noi, però in realtà c'è una pressione dei donatori, quindi se uno vuole operare in un certo contesto deve averle. E quindi, la realtà diventa quella. Ringrazio tantissimo Giampaolo Silvestri, segretario generale di AFSI, Francesca Mangia, vice direttore dipartimento supporto operazioni di MSF, grazie mille, buona giornata e buon lavoro a entrambi. Noi siamo quasi in chiusura, siamo in chiusura, ne sia prova. L'ordine di Roberta Fisani, a cui rispondo ringraziando tutti gli ascoltatori e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Appuntamento a domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.